Sulle mani, su! Stringerei i miei pugni, vorrei aprirli per toccare quello che io cerco, ma non riesco mai a vedere. Mi raccontano che il mondo deve essere più magico, ma io in certi istanti non ci credo più. Perché le attenzioni che mi dai non bastano, perché le emozioni scappano veloci come sabbia le dita, come le parole che si perdono fra le bugie. Perché la notte i sentimenti sono più forti, perché la notte i rimpianti sono più forti, la nostra pazzia sembra più forte. Perché la notte chi devo avere qualche conto in sospeso, perché mi sembra che tutto ruoti intorno a me, ma il problema è che non so più dove sia questo me. La notte tu sei il tuo semaforo, decidi tu quando ripartire. La notte quasi quasi dormi, o quasi quasi stai sveglio. Resta in piedi se il mondo cade giù, tutto sembra un po' più labile, a volte tutto è un po' più stabile. Più su, tutti, tutti! Perché la notte i sentimenti sono più forti, perché la notte i rimpianti sono più forti, la nostra pazzia sembra più forte. Grazie. Grazie a tutti.